che bella la vita, quando c'è la, la, la, la, la, la, la. Poi però finisce subito, cioè. Chiedo asilo. Allora, Sant'Ambroise, per i milanesi è festa, tu sei milanese, quindi sei contento. Sant'Ambroeus. Sant'Ambroeus è una di quelle tradizioni. Sono contentissimo, oggi proprio mangi, mi sento milanese. Castagne, no? Cosa mi sento... fai? Vai a passeggiare sotto i viali senza le viali? Foglie. Sei tu che vai sotto i viali con le perucche. No, allora, avanti. Vabbè, comunque, oggi è Sant'Ambroeus per noi cattolici, però Sant'Ambroeus ha in realtà altre due festività, che sono il 4 aprile per i veterocattolici e per i luterani e il 20 dicembre per i cristiano ortodossi, che sono i greci, i macedoni e bulgari. A Milano oggi festeggiano i cattolici, gli altri festeggeranno il 4 aprile e il 20 dicembre. No, però scusa, no. A Milano la festa del santo patrono, una festa cittadina che vale per tutta la città, è il 7 dicembre, quindi luterani, ortodossi, tutti quanti festeggiano anche loro oggi. Non è che... Ma festeggiano due volte. Vabbè, sì. E i veterocattolici? Quelli non ho capito chi... Ho letto veterocattolici, però non ho capito cosa vuol dire veterocattolici. Saranno i cattolici... sì, quelli lì. E quindi cosa sono? Tipo gli Amish, non so, no, gente che abita ancora... No, sono quelli che fanno 13 figli, vanno alla messa in latino, sì, sono un po' così, un po' insomma... Due o tre in tutta Milano, insomma, non è che ce ne siano tanti. Vabbè, comunque anche i veterocattolici sono costretti a festeggiare Sant'Ambroeus il 7 dicembre, tutti sì, allora, però poi tutti lo possono, quanti i milanesi. I milanesi possono festeggiarlo se vogliono il 4 aprile sì, il 20 dicembre ma è un po' quello che succede con gli ebrei, che festeggiano un po' il nostro Natale, però hanno il loro Natale ebraico, un'altra cosa. Cosa c'è, Tito? Ma il Natale ebraico non esiste nessun Natale ebraico, allora, il Ferragosto ebraico cos'è? Che la Pasqua ebraica, ecco, c'è questa festa che per noi è un giorno e per loro un altro, il Capodanno, non so, la festa. Comunque stiamo parlando di un fenomeno limitato a Milano, voglio dire, è solo a Milano che si festeggia Sant'Ambroeus Drago. Nel resto della nazione no. Però comunque però oggi è venerdì. Certo. E quindi c'è da festeggiare comunque, no? Senti, non ti viene anche a te? Certo. Sant'Ambroeus. No, meglio venerdì. Sant'Ambroeus. Tu sai la vita di Sant'Ambroeus? Racconta la vita di Sant'Ambroeus su questa base. Dai, su, forza. Sant'Ambroeus nacque. Sai niente. Ma nacque? Chiedo asilo. E ora, bambini, ricreazione. Vabbè, oggi in ricreazione non ci sarà nessuno. È il 7 dicembre a Milano, all'asilo. Ci siamo giusto io e te. A parte che laggiù chi è? Ma no. Sentite? Vabbè, è lui. Forse, lui c'è. Siete qualche voi due? No. Effettivamente. Siamo degli ologrammi. No, meno male, perché pensavo di essere qua solo, non c'è nessuno. Ma adesso, ma cosa ci fai qui? È un giorno di festa oggi, 7 dicembre, Sant'Ambroeus, sei anche tu. Sant'Ambroeus, sì, milanese Sant'Ambroeus. Quindi? No, io qui sono qui. Io cosa devo fare? I miei mi hanno lasciato qui. I tuoi? Perché? Sì. Loro dove sono andati? Raccontate la fiera degli Obeobei, no? Oggi Sant'Ambrogio è la tradizione a Milano, che è il patrono di Milano, è Ambrogio, c'è cioè la fiera degli Obeobei. Obeobei. Ho sempre sentito dire. Cos'è? In inglese, Obeobei, ubbidisci. Ma no, una cosa di schiavi. È una roba milanese, guarda che è una cosa seria. Il provinciale, Obeobei, lo sanno tutti, no? È una roba vecchissima. Vecchissima. La cosa del nata nel 1200, che quando l'ho letto su internet, mi sono quasi. Cioè, mi è venuto un attacco di panico, perché pensare al 1200 è un tempo immemore. Come quando si pensa all'infinito, no? Che viene un'angoscia. Capisci? Poi dopo mi sono acchietato. Meno male. E qui è nata questa fiera. Poi dopo 300 anni, c'è una cosa. Il Papa, perché c'era il Papa anche allora, ha mandato a Milano, perché a Milano la gente aveva la fede un po', credeva meno nei santi. Allora ha mandato un suo messo, Giannetto si chiamava, no? Giannetto vai a Milano a risvegliare la fede dei milanesi dei santi. Ma Giannetto è un nome tipo da bidello. C'aveva anche un cognome. C'aveva anche un cognome, che però non me lo ricordo, Giannetto. Oscar Giannetto. E qui lui ha detto, va bene Papa, io vado. È venuto a Milano, è arrivato con un sacco di regali per i bambini, no? Per farsi accogliere bene. Giocattoli, dolciumi. Quindi appena entrava in città, tutti i bambini che ricevevano i regali dicevano Obei, Obei! Obei, Obei. Che vuol dire o belli, no? Obelli. Non inglese. Ecco. E da lì è nata questa tradizione, si è mantenuta fino adesso, no? Questo che bravo, capito? La questa tradizione la lui la conosce, l'ha letta su internet, insomma un po' come è riuscito, però papà gliel'ha insegnata. La tradizione, viva le tradizioni. Però intanto lui è qui e i suoi genitori sono a fare la tradizione, fiera. Vabbè sì, per forza. Giannetto non c'è più, qui c'è più nessuno che regala dolciumi e giocattoli, capito? E qui cominciano i problemi, perché c'è poco da gradare, obei. Allora, tre caldarroste costano 10 euro. Ci sono i giocattoli che costano poco, ma sono i giocattoli cinesi, no? Quelli fatti con le sostanze tossiche. Sì. Quindi risparmi prima, ma poi bisogna fare un mutuo per tutte le spese mediche del bambino, capisci? E poi e i gommosi costano come oro. I gommoni, cosa sono i gommoni? I gommosi, le caramelle gommose. Mamma mia, sì. Tutti colorati, tutti i gusti ci sono, capisci? Comunque qui, per evitare di spendere i soldi, e di farsi vedere dagli altri mentre negano al loro figlio di comprare un dolciume, un gommoso. I miei genitori ci vergognano. Libro cuore, perché non c'è se di colpa. Sì. Certo. Mi hanno detto che visto proprio oggi che è un giorno di festa, che è Sant'Ambrose, è importante che io capisca che sono un bambino privilegiato, capisci? Certo. Sì, perché ci sono milioni, miliardi di bambini che non hanno nulla, no? Solite robe, bla bla bla, privilegiato. E quindi sei privilegiato. E quindi ce lo becchiamo noi, non so. Mi sembra un bel privilegio. Appunto, è che appunto il fatto che mi beccate voi, ma voi perché siete qua? Non è mica festa, scusate. Perché noi siamo qui perché altrimenti non ci saresti nemmeno tu, bambino Alberto. In che senso? Cioè, sì, io ero qui. Sì, perché se noi non fossimo qui, nessuno saprebbe che ci sei anche tu, no? E se nessuno lo sapesse, sarebbe come se tu non ci fossi. È reale quello che si vede o si sente o è reale quello che è? Capite? È lì la questione, no? Stai demandando, stai parlando con me? C'è la grotta di Platone. Ma è filosofia, cosa vuoi che capisca? Non è roba da bambini, dai. Allora, visto che non è roba da bambini, me la tenete per voi? Anzi, facciamo una cosa, se volete occuparvi di cose da bambini, voi andate alla fiera, io sto qua da solo, certo c'ho il mio panino da mangiare, ce l'ho, posso stare qua da solo. Voi andate alla fiera di Obey, io per un po' non esisto, no? Pazienza. Poi tornate con un chilo di gommosi, no? Sti gommosi. Allora vi prendete un po' di alligatore d'arancio, i ciucci di frutta colorati, ci sono i pesciolini, quelli mille gusti. E poi ci sono i vermi alla cola. Buoni. Beh, i criceti al limone. Ma non dite stupidaggini. Le tartarughe di liquirizia sono buonissime. Mamma mia, che roba. Non capisco di che cosa stiate parlando. Ma dai, Drago, su, come non capisci? Le tartarughe di liquirizia. Ma no, ma questo non capisce niente, capito? Drago, lascia stare, è una roba... è filosofia, capisci? È roba da bambini. Allora, vorrei fare un appello serio però, perché Ciccio Bello compie 50 anni e nonostante ciò continuano a fargli fare sempre le stesse cose da bebè, insomma c'è 50 anni. Ma Ciccio Bello... Sì, il bambolotto, il bambolotto che quando eri bambino vedevi tra le braccia delle tue coetanee, c'era già... Sì. Insomma, sono 50 anni che Ciccio Bello, se gli togli il ciuccio, piange. Sono 50 anni che se la fa sotto e bisogna cambiarlo. Vabbè. Sono 50 anni che se ne sta lì con gli occhi aperti, sei in piedi e chiusi, sei sdraiato. Ma insomma, cosa deve liberate fare? Liberate Ciccio Bello, c'ha 50 anni, anche lui. Ma cosa vuoi? Bamboccione, è appunto il bamboccione, il bambocciotto. Il bambocciotto è Ciccio Bello. Ciccio Bello fa quelle robe lì. Cos'è che improvvisamente deve mettersi a leggere? Capito, non so. Ma a 50 anni potrebbe almeno imparare a fare la pipì da solo. Insomma, se aspetta ancora un po', passerà direttamente dal pannolino al pannolone, come vabbè, capita. Comunque guarda che quest'anno Ciccio Bello torna a Natale con delle novità. Cioè tu dici che fa sempre le stesse cose, invece ci sono delle novità. E che novità sono, scusa? E c'è, per esempio, quest'anno c'è Ciccio Bello africano che si chiama Drago, si chiama Moretto. Moretto, ma sembra un nome da anni della guerra. Il grazioso Moretto, schiavo di Roma, si appresta a baciare la bandiera si tricolore. Si chiama Moretto, cosa vuoi farci? Moretto, cioè, ha i capelli riccetti, è marrone scuro. È proprio Ciccio Bello etnico, no? Bellissimo, sì. C'è anche Ciccio Bello con gli occhi a mandorla e Ciccio Bello eschimese. Eschimese. È Inuit. Cioè, anche lui ha gli occhi a mandorla, quindi. Uguale sì, però ha su una tuta invernale col pelo. Ma scusa, ma vanno ancora di moda gli eschimesi? Non ho capito, chi se lo compra un Ciccio Bello eschimese nel 2012? Se lo compra chi ha 80 euro. 80 euro? Certo, se vuoi Ciccio Bello bua spendi anche di più. Ma Drago, Ciccio Bello bua? Perché più. Ha tutti gli accessori medici, le siringhe, le perette, gli stetoscopi. Drago, Ciccio Bello bua. Ma a 50 anni ancora la bua, ma non ho capito. Ma c'è di strano? Ma a 50 anni di solito hai la pressione alta, il colesterolo fuori controllo, altro che la bua. Ma c'è anche il coso per la pressione, come si chiama? Lo sfigmomanometro? Mancano 14 giorni alla fine del mondo.